ancora di più dopo la guerra, arte è rimasta sempre quello che ci teneva in vita, quello che ci dava la forza e la speranza, e l'arte non è mai stata distrutta, non sono mai stati abbattuti i ponti artistici tra la gente che vive nei Balcani. Certo, è molto bello l'articolo, vi consiglio di leggerlo, però Asra, c'è un'immagine che più di altre mi ha colpito, sono queste due vecchiette, una con un foulard nero, uno con un foulard colorato, tu dici una è musulmana e una è cattolica, no? Che rappresentano un po' la storica divisione, però poi si parlano, c'è complicità, c'è una malinconia, una tristezza di fondo negli occhi di queste due anziane signore. È una fotografia corretta della Bosnia di oggi? Ma io penso di sì, molto più corretta e molto più vera, ingenua di quella che ci danno i politici, perché nonostante tutto la gente comune, dove anche mi vedo anch'io, io sono una delle persone comunissime, no? La gente comune non ha smesso di comunicare, non ha smesso di parlare, non ha smesso la gente comune di stare insieme. Io stessa, quando ci vado a Sarajevo, ad esempio, sto nell'appartamento dei miei genitori e le chiavi le tiene un vicino che è un croato. Però io di queste cose, serbo, croato o musulmano, gli dico solo quando parlo con i stranieri. Da noi, mentre pronuncio queste cose, mi sento molto estranea a se stessa, perché io nella tutta mia vita, la maggior parte della gente con quale io ho a che fare, non abbiamo mai accentuato questa appartenenza nazionale o religiosa. Per farvi capire quanto questo piccolo particolare importante, io ho una sorella e la sorella a Sarajevo non tiene le chiavi del mio appartamento, ma mio vicino che non è un musulmano, ecco, certo. E di questi particolari si trova sono tante, ovunque. Certo.